Comunismo, addio. Ne parliamo con Stefania Porrino, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Allora, raccontaci un po' di cosa si parla. Dunque, questo comunismo addio, già dal titolo si intuisce che si parli del valore, diciamo, storico, teniamo presente che sono i 100 anni della rivoluzione russa, quest'anno capita, no? Del comunismo, di questa ideologia che ovviamente è stata, diciamo, ridimensionata in maniera molto forte da tutti gli eventi storici che sono successi, insomma, dal 900 a oggi, e che però, siccome è stato per me, io che sono una sessantenne, quindi questo è uno spettacolo direi generazionale, dedicato un po' ai coetanei, cioè tutti noi che abbiamo vissuto negli anni 70, questa formazione invece appunto marxista, chi più diciamo moderato, chi più estremista, però abbiamo vissuto quel periodo lì, e oggi, dopo tanti anni, dopo anche tante delusioni politiche, dopo tutto quello, i cambiamenti che ci sono stati, alcuni positivi ma molti anche negativi, tutti noi credo ci chiediamo un poco che cosa abbiamo vissuto quando eravamo dei sedicenni, diciassettenni al liceo. Io ho fatto il liceo Giulio Cesare a Roma, il liceo classico, e ho vissuto in prima persona un periodo intensissimo, nel senso che sotto davanti alla scuola ogni giorno c'era la camionetta dei carabinieri, della polizia, che doveva evitare che ci fossero le botte. Ogni giorno c'era il rischio che tra fascisti e comunisti succedesse una piccola guerra. Quindi noi questo l'abbiamo vissuto quando avevamo 16-17 anni. E quindi io nel mio testo, ecco, mi interrogo su questo: cosa è rimasto poi di tutta questa vita politica vissuta molto intensamente nei suoi lati positivi e negativi, ripeto, c'erano tutti e due, però cosa è rimasto oggi? Ecco, e questo è lo spettacolo, che poi è ambientato su una nave da crociera, perché ho preso spunto proprio da un fatto che mi è successo realmente, di andare in crociera sul Dnepr in Ucraina nel 2002, e trovarmi con delle compagne di viaggio chiaramente di destra, una destra molto superficiale, così, e poco impegnata culturalmente, e che quindi se ne uscivano continuamente con tutti i luoghi comuni appunto dell'anticomunismo degli anni 70. E io mi sono trovata in questa crociera a dover riflettere dopo tanti anni, appunto dopo un certo distacco che ho avuto dalla politica, sul valore di questa esperienza fatta da giovane, e quindi lo spettacolo parla di questo, ecco. Senti, come avete lavorato? Quanti altri attori e attrici hai coinvolto? Dunque sì, è uno spettacolo con parecchi attori, che oggi come oggi, insomma, chi fa teatro sa benissimo quanto è difficile riuscire a fare uno spettacolo con più di 2 o 3 attori. Qui ce ne sono 5 più 1, nel senso che c'è la protagonista, che quella che fa, diciamo, il mio ruolo, quello di Stefania, proprio che come personaggio ho voluto lasciargli il mio nome, ed è Evelina Nazzari. Poi c'è un altro personaggio importante, che è la guida del viaggio, diciamo, che si chiama Lidia, e che è interpretata da Nunzia Greco, e queste due donne appunto portano le loro 2 esperienze diverse del comunismo, che sono molto diverse. Una è una tartara che è stata cacciata da Stalin appunto dalla Crimea, e l'altra invece è Stefania, appunto quella di cui ho parlato fino adesso, che sarebbe la mia visione della mia esperienza del comunismo italiana, chiaramente. Poi ci sono invece altri 3 personaggi, che sono i turisti, questi turisti di destra, e gli attori che li impersonano sono Giulio Farnese, poi c'è Carla Canini Carretti e Alessandro Pala. E oltre a questi, dal racconto di Stefania, della protagonista, emerge il ricordo degli anni del liceo, e c'è il cugino a cui lei si rivolge, a cui scrive delle lettere durante il viaggio, e questo cugino invece viene interpretato da Giuseppe Pestillo, che più che come attore qui sarà impegnato anche a accennare delle canzoni, tutte le canzoni dell'epoca. Ho voluto inserire proprio nel testo anche questa parte musicale per rievocare quegli anni 70, e in particolare Guccini, ma anche Battisti, cioè quindi mettere dentro anche le musiche che noi ascoltavamo in quei tempi. E questi quindi siamo in 6 attori in tutto. Poi non solo, c'è anche una parte tecnica importante, che abbiamo un video che appunto, diciamo, proprio rientra nello spettacolo in maniera da protagonista, anche questo, insomma. Qual è il bilancio umano, ideale e artistico rispetto a questo vissuto? Oh, è una bellissima esperienza che sto facendo, intanto perché appunto di questi attori quasi tutti sono attori con cui avevo già lavorato tante volte, in particolare con Evelina Nazzari e Giulio Farnese, e quindi con i quali diciamo, ho costruito negli anni una capacità di intesa molto immediata, ci capiamo al volo e quindi io so benissimo come possono interpretare loro i personaggi, e quindi appunto è molto bello lavorare da questo punto di vista. E poi anche per loro è stato interessante, cioè ogni volta che facciamo le prove ci interrompiamo poi a un certo punto a dire: ma vi ricordate che abbiamo vissuto questo? E ognuno di noi anche si racconta all'altro, perché ognuno di noi ha avuto esperienze un po' diverse, abbiamo vissuto quegli anni lì, ma ognuno a modo suo, e quindi è stata una cosa molto bella, stimolante sia intellettualmente che anche poi proprio artisticamente, perché ognuno poi porta appunto il suo contributo. Però ripeto, a me piace molto lavorare con persone che già conosco, perché si va sempre più in profondità, no? Ovviamente sì, poi sì. È bello anche avere dei nuovi incontri, ecco, Nunzia Greco è un bellissimo incontro nuovo che ho avuto in questa occasione, anche Alessandro Pala. Però insomma è bello poter costruire con degli attori un percorso durante gli anni, ecco, dal punto di vista artistico. Senti, dopo Teatro di Documenti che succederà? Questo è un punto interrogativo come nel titolo, addio, spettacolo addio, non lo so, perché spererei che, visto che questo spettacolo, che tra l'altro ho avuto anche un premio, io ho vinto un premio per il testo Donne Teatro 2007, e è un testo che dovrebbe sollecitare appunto un certo interesse culturale in questo momento, politico culturale, quindi io spero che qualcuno si interessi veramente e mi aiuti a portarlo avanti, perché credo di poter dare un piccolo contributo, perché è una, diciamo, non è un teorema politico, è un'esperienza personale mia molto limitata, quindi però è un contributo a cercare di chiederci, di capire insomma politicamente dove dobbiamo andare, ecco, la domanda fondamentale è questa, e quindi spero che qualcuno colga questa occasione per portare avanti lo spettacolo, insomma. Stefania, un abbraccio, ci vediamo a teatro. Grazie, vi aspetto tutti. Ciao. Ciao.